E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. But I cannot think of a better person to continue Tim's work at Treasury than Jack Lew. L'America avrà presto un nuovo segretario al Tesoro, Jack Lew, il presidente Obama, lo avete sentito ieri in una cerimonia, devo dire, toccante alla Casa Bianca, ha presentato il successore di Tim Geithner. Beh, perché toccante? Beh, perché, devo dire, queste cose le fanno molto bene i politici americani. È stata una cerimonia molto solenne e Obama, con grande sincerità, ha fatto uno straordinario elogio di Tim Geithner, segretario al Tesoro per 4 anni, ricordando quando lui entrò nella sua amministrazione. Fu il primo segretario annunciato, il ministro del Tesoro fu il primo che Obama annunciò quando vinse le elezioni per la Casa Bianca. 4 anni fa eravamo in una situazione di crisi tremenda, si rischiava il collasso dell'economia, si rischiava la bancarotta per una gran quantità di banche americane, per i consumatori americani. E dunque Obama, ecco, ha rievocato quei momenti, ha ricordato il periodo che l'America ha passato molto difficile e naturalmente l'opera straordinaria di Tim Geithner. Ma il personaggio nuovo è Jack Lew. Perché Jack Lew, che tra l'altro è capo di gabinetto della Casa Bianca, quindi il numero uno, ecco, il capo operativo della Casa Bianca, il responsabile di tutti i funzionari, di tutte le nomine politiche che lavorano alla Casa Bianca. C'è un precedente, ecco, questo mi ha colpito. Negli anni 80, nel 1985 per essere precisi, Ronald Reagan nominò il suo capo di gabinetto di allora, Jim Baker, alla carica di segretario al Tesoro. Ecco, fu un passaggio questo che colpì e Jim Baker poi divenne uno dei segretari al Tesoro storici degli Stati Uniti, si inventò gli accordi del Plaza e soprattutto lanciò l'operazione di coordinamento internazionale per intervento sul mercato dei cambi da parte delle grandi banche centrali, delle grandi tesorerie, quindi dei 7 grandi, per gestire quello che allora era il passaggio alla globalizzazione. Ecco, Jack Lew, devo dire, ha una sfida davanti a sé non facile, perché da qui ai prossimi 2 mesi si dovranno risolvere la questione del tetto sul debito, la questione dei tagli alla spesa pubblica e l'approvazione del bilancio per il funzionamento del governo americano. Sono 3 scadenze diverse. Perché Jack Lew è stato scelto? Beh, perché è l'uomo giusto al momento giusto. Pensate, fu l'assistente di Tip O'Neill, che era il presidente della Camera negli anni 80, proprio durante l'amministrazione Reagan, un democratico, e per conto di O'Neill negoziò con l'amministrazione Reagan il bilancio di allora e soprattutto il risanamento delle pensioni che rischiavano di andare in fallimento. È poi stato capo dell'ufficio del bilancio con Bill Clinton, ha poi lavorato a Wall Street per 3 anni con Citigroup, dopodiché è tornato a lavorare con Barack Obama, ha lavorato un po' al Dipartimento di Stato, di nuovo capo dell'ufficio del bilancio e infine capo di gabinetto. Ecco, direi che i numeri li ha tutti, è l'uomo giusto per negoziare questo passaggio chiave che abbiamo da qui ai prossimi 2 mesi sul piano politico. È un uomo di basso profilo, non ama i riflettori, molto discreto, molto trasparente, molto onesto, dovrebbe essere la persona giusta. Naturalmente le prime reazioni dei repubblicani sono state negative. Un altro breve accenno sul piano delle notizie a qualcosa di grave che è successo ieri: un'altra sparatoria in una scuola, la Taft School vicino a Los Angeles, a Taft, a nord di Los Angeles. Un ragazzo di 16 anni è stato colpito, ferito gravemente durante una sparatoria in questa scuola. Non sono chiari i motivi, si sa che il colpevole è stato arrestato. Ecco, questa notizia è giunta nel momento in cui Joe Biden, il capo della NRA, cioè la National Rifle Association, l'associazione dei portatori d'armi, si sono incontrati per cercare una soluzione. Vi dico subito che l'incontro si è chiuso con un nulla di fatto. Lincoln ha fatto il pieno, ne abbiamo parlato di questo film in più occasioni perché è anche un punto di riferimento, devo dire, culturale e politico anche per la politica del nostro tempo, un grande film di Spielberg e ha avuto ieri mattina 12 candidature agli Oscar. Una di più, devo dire, c'è stato un altro film che ha colpito, Vita di Pi di Ang Lee, che è la storia di una tigre, ed è un film che ha avuto, pensate, 11 candidature. Comunque ci sono una gran quantità di novità, di curiosità in queste scelte da parte dell'Academy per la grande celebrazione che si terrà il 24 febbraio al Kodak Theater di Los Angeles. What meds are you on? I used to be on lithium and Seroquel. I was on Xanax. You ever take Klonopin? Klonopin, yeah. Like, is it what? I'm tired, I want to go. Are you going to walk me home or what? Bene, un'altra curiosità, Silver Lining è un altro film candidato al miglior film, ma è anche uno dei film che si è aggiudicato tutte le candidature più importanti, miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura, premi per gli interpreti, quindi miglior attore e miglior attrice. E ha avuto un totale di 8 candidature a pari merito con il musical Les Misérables. Amour ha avuto 5 nomination, Django Unchained, di cui vi ho parlato, la storia della schiavitù in America, ha avuto 5 nomination, come pure il nuovo film di 007 Skyfall e Zero Dark Thirty sull'uccisione di Osama Bin Laden. We're stepped out upon the world stage now, with the fate of human dignity in our hands. Blood's been spilled to afford us this moment. Now! Miglior attori, beh, ce ne sono 5: Bradley Cooper per Silver Lining, Hugh Jackman per Les Misérables, Joaquin Phoenix per The Master, Denzel Washington per The Flight. Ma quella che avete ascoltato è la voce di Daniel Day-Lewis in Lincoln. Secondo me avrà ottime opportunità di aggiudicarsi l'Oscar per miglior attore. There's a 60% probability he's there. I'd say it's a soft 60, sir. It's 100%. Jessica Chastain, lei che avete sentito, Zero Dark Thirty, ottime chance. Jennifer Lawrence per Silver Lining, Playbook, stiamo parlando della miglior attrice protagonista, Emmanuelle Riva con Amour, e Quinzehane Wallis per Beast of the Southern Wild, Naomi Watts per The Impossible. Due cose mi colpiscono in queste candidature. Emmanuelle Riva per Amour è l'attrice più anziana a essere mai stata candidata a un Oscar, 85 anni, e Quinzehane Wallis per Beast of the Southern Wild è la più giovane, 9 anni, una ragazzina afroamericana, un'interpretazione, devo dire, incredibile, meritatissimo, non mi sorprenderebbe se il premio andasse a lei. Colonne sonore, beh, non entrerò nei dettagli di tutti gli altri premi, altrimenti non la finiremo più, ma Dario Marianelli, un italiano candidato per la musica originale di un film per Anna Karenina, e poi abbiamo Argo, Life of Pi, Lincoln e Skyfall, anche loro per le musiche migliori. Chiudo con un paio di curiosità. Sorpresa per l'esclusione di Kathryn Bigelow come migliore regia, Zero Dark Thirty, ve lo ricordo, la Bigelow ha vinto il premio per miglior regista, miglior film con Hurt Locker, un altro film diciamo di guerra, ma in questo caso sono state molte polemiche perché sembrava che la Bigelow potesse approvare in qualche modo l'idea della tortura. Delusione anche per altre due pellicole escluse, per esempio dalla miglior fotografia, Moonrise Kingdom e The Master, che però porta a casa 3 candidature per il miglior attore protagonista, miglior attore non protagonista, miglior attrice non protagonista. Un film che vi raccomando di vedere se non l'avete ancora visto, un rapporto molto particolare con una straordinaria interpretazione di Joaquin Phoenix, che racconta del rapporto tra il fondatore di una setta religiosa, e un suo seguace. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter, @24America, seguiteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, direi teniamoci sul tema Oscar, e visto che c'è anche il premio Oscar per la miglior canzone originale, oltre che per la miglior colonna sonora, vi propongo di Adele, Skyfall, canzone originale per il film di 007, appunto Skyfall. This is the end, Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.